Continuo a stare sopra un beat con chi vive così lunedì, col giramento di testa provocato dagli split. Col pretesto di svegliarsi la mattina presto, guardo poste di Ernesto, poi esco, sto fresco. Ya, yabba dabba, accendo un'altra clava, poi la passo al mio socio bevendo un goccio d'aranciata. Mara, bocca impastata, tipo radura del Sahara. Una manciata di minuti è già passata, io penso alla Giamaica, questa è la mia giornata. Ca, cameriere, dammi un posto a sedere, tieni pure il bicchiere, perché io accendo un braciere, va bene? Mi mando rolla, ma non è una gioia. È uno spino bresciano di vino, ondeggia la folla che non s'annoia. Un'espressione di gioia, roba da circo come Moira. Con Neko e Zorba su un beat che fa la storia. Tu un cane da anni, sto sotto effetto di effetti. Deliri da brutti cesti, sto sotto effetto di effetti. Occhi e riflessi spenti, sto sotto effetto di effetti. Danni anonimi alcolisti, per effetto dei ceffi costrutti. Effetto di effetti, in effetti, affetto affetto nei fatti, voto con tutti. E i miei ceffi sono quelli più brutti. Gare di ruti fino a Gardebersi, cerchi di farsi. Ma i nostri parti sono fighe, tu parti. Per buttarti dai ponti bastano effetti di tanica, volta cronica, volta rullante che pesta, lanciati da clinica. Basta un basso da disco 80, mi basta una pasta che poi c'è il pesto sulla pista. Ballo e sballo come le pubblicità progresso. Se mi drogo mi spengo, se non mi drogo non viaggio tanto. I grandi non passano i 30, la merda sarà diversa, ma la bestia che la caga è la stessa. Principe, principessa, è un'altra stella dispersa da killer con la palestra. Ennesimo pazzo di destra, distrutto dai sensi di colpa. Cane da anni, sto sotto effetto di effetti. Deliri da brutti cesti, sto sotto effetto di effetti. Qualche riflessi spenti, sto sotto effetto di effetti. Danni anonimi alcolisti, per effetto dei ceffi di brutti. Perché quando scendo dall'auto faccio 3 metri e mi domando, sono chiuso, poi torno indietro e non chiudo. E me ne vado senza pensieri, lasciando dentro tutto, chiavi di casa, cellulare, gli averi. Strani ma veri, sti cazzo di scleri che pago per quando creo la nebbia artificiale come un mago. Se mi spago brutto fumo dal naso come un drago. And now make noise, state con noi, sarò l'Urigo Boys, non te ne vai. Mischio il nero con la White Widow, quindi sai che non uscirai dritto. E come avrai capito, io continuo a piegarmi sotto effetto di grammi su grammi. E poi viene a trovarmi il mio socio di sballi, Bugs Bunny. Non ne uscirete mai vivi. Ed è per questi motivi che noi restiamo recidivi. Tu cane da anni, sto sotto effetto di effetti. Deliri da brutti cesti, sto sotto effetto di effetti. Occhi e riflessi spenti, sto sotto effetto di effetti. Danni anonimi alcolisti, per effetto dei cerchi più brutti.